Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Il ministro Passera al meeting di Rimini, l'alta tassazione è una zavorra da correggere, dobbiamo trovare le risorse per intervenire. La Germania frena su un tetto della BCE agli interessi sui titoli di Stato, sarebbe problematico, dice. È morto Tony Scott, con Top Gun creò il mito di Tom Cruise. Alex Schwarzer e il doping, esce dal silenzio la fidanzata Carolina Kostner, ha sbagliato, dice, ma ha avuto il coraggio di ammetterlo. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Sì, vedo l'uscita dalla crisi, lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle parole del premier Mario Monti pronunciate ieri a margine del meeting di CL. Abbiamo una delle più alte tassazioni al mondo, è una zavorra che dobbiamo correggere, ha poi detto Passera dal palco. Dobbiamo trovare le risorse per il welfare, per ridurre la fiscalità ai cittadini e alle imprese oneste. Passera ha parlato anche della macchina della produzione. Noi dobbiamo avere il coraggio di andare oltre, perché dobbiamo proprio porci il tema se possiamo permetterci, se vogliamo ancora tollerare quella matassa che abbiamo intorno a noi e che rende così difficile la vita degli individui, la vita delle imprese, rende così lungo qualsiasi scelta di investimento, rende così defatigante qualsiasi procedura per mettere in moto una infrastruttura. Si può cambiare, ma bisogna avere un grande supporto popolare, un grande supporto politico, perché le resistenze sono fortissime. Sono tantissimi quelli che vivono su questo gomitolo, su questa ragnatela che abbiamo intorno. Ma si può e si deve passare per delle cose si deve passare per delle cose che per le persone normali, per noi, sembrano ovvie, ma che ovvie e facili da cambiare non saranno. Alla Germania non piace il progetto della Banca Centrale Europea di fissare, come riportato dal giornale tedesco Spiegel, un tetto agli interessi oltre il quale scatterebbe l'acquisto di bond dei paesi in difficoltà. Secondo il portavoce del Ministero delle Finanze tedesco, un intervento di tal genere da parte della BCE sarebbe rischioso e molto problematico. Il no tedesco al piano della BCE ha frenato gli andamenti dei mercati in tarda mattinata. Complice la crisi economica, sono tornati ad aumentare nel nostro paese nel 2011 i reati. Anche per i reati, come per i consumi o l'occupazione, c'è un rischio di ritorno al passato. Il consuntivo 2011, dopo 3 anni di flessioni, evidenzia un aumento del 5,4% e il totale dei delitti ha superato quota 2.760.000, il livello registrato nel 2006. È quanto risulta dai dati del Ministero dell'Interno pubblicati oggi sul Sole 24 Ore con un'elaborazione territoriale per tipologia di reato. Certo, forse è esagerato parlare di allarme, ma qualche segnale di inversione di tendenza c'è. Un ritorno spiegabile in parte con la crisi economica, tanto è vero che sono proprio i reati predatori a manifestare gli incrementi maggiori e a essere più colpite sono le aree metropolitane e quelle caratterizzate da una struttura economica più florida, come alcune province tosco-emiliane. Qualche esempio. I furti nelle abitazioni sono aumentati del 21%, colpendo in particolare province come Lucca, Pisa e Pavia. Crescita analoga per le rapine, dove spicca Napoli, con i negozi che hanno sostituito le banche come bersaglio. I borseggi e gli scippi sono saliti rispettivamente del 16% e del 24%. Milano, come prevedibile, ha la più alta incidenza di reati in rapporto alla popolazione ed è prima anche per volumi. Resta da vedere se questa inversione di tendenza sarà confermata nel 2012, anno in cui le risorse impegnate nell'ordine pubblico dovranno fare i conti con gli effetti della spending review. Rossella Cadeo, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il Tribunale del Riesame ha depositato questa mattina le motivazioni in base alle quali il 7 agosto scorso ha confermato il sequestro degli impianti a caldo dell'Ilva di Taranto. Il Tribunale del Riesame ha disposto che non si continuino a perpetrare i reati contestati, ma sul percorso da seguire i giudici affidano il compito ai custodi nominati dal GIP e dalla Procura. Il gruppo sta facendo molto e molto ancora intenzione di fare per garantire la sicurezza dell'impianto, ha confermato questa mattina ad Oscar Giannino il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante. Interventi per attenuare particolare l'impatto delle polveri, anche quelle provenienti dai parchi minerali, sono in corso. Noi in questo momento stiamo realizzando una barriera, una rete molto alta, alta 21 metri, lunga 2 chilometri, una barriera che serve proprio a contenere queste polveri. Queste sono disposizioni che c'erano state date dal Ministero dell'Ambiente e che noi stiamo attuando in questo periodo. Naturalmente altri interventi in questa direzione ce ne possono essere. Lo stabilimento è stato all'origine, quando è nato, posizionato male, perché i parchi minerali sono stati collocati troppo vicino a zone abitate che poi sono cresciute nel tempo, perché quella zona abitata che era più piccola negli anni è cresciuta notevolmente. Devono essere realizzate ancora delle colline che devono fermare le emissioni dei parchi minerali, però tutto questo può avvenire se il ciclo produttivo e l'attività degli impianti prosegue. Altrimenti, se noi decidessimo di fermare l'attività, questo vorrebbe dire la fine dell'azienda. Mi piace ricordare una frase del ministro Passera: se si chiude non si riapre. Svolta storica in Birmania. Il governo ha fatto sapere di aver abolito da oggi stesso la censura sui mezzi di informazione del paese. Ha infatti eliminato le ultime restrizioni che gravavano sulle pubblicazioni di carattere politico e religioso. È arrivata la condanna a morte in Cina con sospensione per l'ex capo del Partito Comunista accusata di omicidio. Sentiamo. È stata condannata alla pena di morte con sospensione Gu Kailai, la moglie dell'ex segretario del Partito Comunista Bo Xianlai. La donna, rea confessa, è stata giudicata colpevole dell'omicidio di Neil Ewood, uomo d'affari inglese. La condanna prevede che l'esecuzione venga sospesa per 2 anni, durante i quali Gu dovrà tenere una buona condotta e a quel punto la condanna sarà commutata in carcere a vita. Oltre a Gu Kailai, è stato condannato a 9 anni di carcere Xiang Xiaojun, l'amico di famiglia accusato di aver aiutato la donna nell'omicidio di Ewood. Lo scandalo ha stroncato anche la carriera di Bo Xianlai, che era un brillante politico, avviato alla conquista di un ruolo di importanza ai vertici del partito. La sentenza della moglie, però, è il preludio a una probabile condanna di Bo sotto inchiesta per presunte violazioni alla disciplina di partito, che vanno dalla corruzione all'abuso di potere. L'uomo, infatti, aveva provato ad insabbiare l'inchiesta per proteggere la moglie. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo tema, naturalmente anche di molto altro ancora, torneremo a parlare fra pochissimo in Nessun Luogo è Lontano con Giampaolo Musumeci. Il regista britannico Tony Scott, fratello di Ridley Scott, si è suicidato questa notte negli Stati Uniti. Era stato il regista di film d'azione come Top Gun e Nemico Pubblico, ma anche molto di più, come ricorda Mario Sesti, direttore del Festival di Taormina e consulente del Festival di Roma, al microfono di Marta Cagnola. Innanzitutto è stato il regista della muscolarità, che era la cosa tipica che caratterizzava per esempio tutto il cinema di fine anni 80, no? Però voglio ricordare anche che insieme al fratello, per esempio, hanno moltissimo lavorato come produttori su cinema completamente diverso da quello che facevano. Una delle ultime cose, per esempio, è un film delizioso, Cyrus, con Marisa Tomei, e come non ricordare, per esempio, un documentario su uno dei più grandi miti della storia del cinema, Il fallimento di Quarto Potere. L'ultima cosa, per esempio, ha contribuito tantissimo, oltre alla formazione del mito di naturalmente Tom Cruise, alla costruzione dell'immagine di Denzel Washington, no? Io credo che nella costruzione di quell'immagine di mito, un po' come facevano i grandi registi americani delle fasi d'oro degli anni 30, degli anni 40, il cui mestiere era innanzitutto creare delle star, credo che in quello Tony Scott sia stato più bravo di molti altri, forse più conosciuti di lui. Un uomo di 48 anni si è dato fuoco in un campo alla periferia di Torino perché, ha spiegato in un biglietto, aveva perso il lavoro e non riusciva a trovarne un altro. Da lunedì scorso è stato tolto il servizio di guardia, parliamo di 8 persone, alla villa di Roberto Calderoli su Colli di Mozzo in provincia di Bergamo. Il parlamentare della Lega era finito nel mirino degli estremisti islamici nel 2006 a seguito della vicenda della maglietta con la caricatura di Maometto. Calderoli continua a disporre di una scorta personale formata da altri 8 agenti. Il servizio aveva scatenato le proteste dei sindacati di polizia, visto che negli ultimi 2 anni era costato 900.000 euro. Dalle scorte escort al sottobosco delle tutele che in Italia riguarda quasi 7.000 persone. Il segretario del sindacato di polizia COISP, Franco Maccari, descrive un quadro di grave spreco. Sentiamolo al microfono di Gigi Donelli. Quello che non va da noi non è il numero delle scorte, è tutto il sottobosco delle tutele cosiddette. Noi abbiamo quattro tipi di scorta. Una più importante, più imponente, che va dalle 2-3 macchine con una decina di uomini per turno, a finire alla tutela. La tutela è qualcosa che per noi è davvero ridicolo. Sarebbe un uomo o una macchina non blindata. Allora il ragionamento di fondo è: la persona è da scortare oppure no? Perché se la tutela è una scorta, le posso dire che quella persona che noi mettiamo a fare l'autista, che in realtà è questo, o una macchina non blindata e quindi addirittura pericolosa, è un status symbol. E pensi che quelle tutele che io adesso sto citando impegnano più di 1.500 uomini. Quando dico 1.500 parlo solo di coloro che sono fisicamente a fianco della persona tutelata, che non si può dire scortata. La maggior parte delle proteste avvengono perché la macchina fa schifo o perché vogliono un altro colore, perché questo non è un gossip, quello che sto dicendo io, è quello che succede realmente. Gara di solidarietà fra i napoletani che in molti si stanno autotassando per aiutare Don Luigi Merola a recuperare i 10.000 euro che Equitalia ha chiesto alla sua associazione per non aver pagato la TARSU, la tassa sui rifiuti. Don Luigi ha trasformato una villa confiscata a un camorrista in un centro ricreativo per bambini. È da febbraio che tento di parlare col sindaco, denuncia Don Luigi. Io con quei 10.000 euro quest'anno ho portato i bambini del Rione al mare per ben 2 mesi. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Lo Stato ha tolto la villa al boss e c'è il rischio che il comune di Napoli si riprende di nuovo la villa, dove abbiamo 150 bambini che stanno a titolo gratuito da noi, dove facciamo tutto, scuola dopo scuola. Sapevo che i beni confiscati non sono esentati, questa poi è un'altra assurdità. La legge 109 del 1996 nasce monca perché affida il bene all'associazione Onlus, però il mantenimento ordinario e straordinario spetta all'associazione, ma mica c'ho i soldi del boss. Poi il boss la pagava la TARSU? No, non la pagava neppure, 19 anni che è stato il boss Raffaele Brancaccio si chiama, non l'ha mai pagata al comune di Napoli. Io accolgo, io per dire a voce di creatura, accogliamo i bambini di Napoli, noi facciamo un servizio senza un euro né del comune né della provincia e né della regione. Però dice De Magistris oggi sul Corriere che stanno già lavorando gli uffici competenti per creare un provvedimento che stabilisca l'esenzione dalla TARSU. Però io sono da febbraio per avere un incontro. Non si vede mai il Corriere della Sera, o si c'è notizia, giugno ha dato la notizia, adesso si muovono per dire alla fine. Io mi auguro, certamente è meglio tardi che mai. So che Alex pagherà e pagherà tanto per i suoi errori, ma so anche che troverà la sua strada ora che si è liberato dei demoni che aveva in testa. Per la prima volta Carolina Kostner parla della vicenda doping che ha coinvolto il suo fidanzato Alex Schwarzer. Come sportivo ha fatto un grande errore, ha detto la Carolina Kostner, ma lo ammiro per il coraggio che ha avuto di ammetterlo davanti a tutto il mondo. La Kostner ha criticato anche la stampa. Quando Alex ha vinto l'oro di Pechino è rimasto sulle prime pagine per un giorno soltanto, mentre questa volta per una settimana intera. E questa settimana dovrebbe concludersi la contesa giudiziaria fra Apple e Samsung. La rapidità della giustizia americana ci regalerà a metà di questa settimana uno dei verdetti più importanti della storia dell'elettronica di consumo. Chi ha copiato tra Apple e Samsung? E qual è il limite per il quale un particolare design può considerarsi originale o una copia? L'azienda di Cupertino in California, quella della mela morsicata, si era rivolta al vicino tribunale di San José accusando Samsung di avere copiato iPhone e iPad per realizzare gli smartphone e i tablet Galaxy, che in effetti non sono molto diversi. Per questo Apple chiede un danno di 2,5 miliardi di dollari. Durante il processo i coreani non solo hanno respinto le accuse, ma fin dalle prime sedute, 3 settimane fa e fino a venerdì, hanno sostenuto con parecchi testimoni che anche la Apple per i suoi prodotti si era ispirata a cose già viste e inventate da altri. Il giudice, la signora Lucy Ko, ha consigliato alle due aziende di mettersi d'accordo fuori dal tribunale, perché potrebbero essere dolori per entrambe. Sabato gli avvocati delle due aziende hanno detto però di non essere in grado di trovare un accordo e quindi la parola passa alla giuria, che dovrebbe decidere tra mercoledì e giovedì e comunque entro la settimana, dopo appena un mese dall'inizio del processo.